Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, grazie all'assistenza della buona sorte possiamo ricominciare a parlare di felicità, del problema dell'inseminazione artificiale delle elefantesse, di omaccioni e dell'autorità del libro.